versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Buon lunedì 19 dicembre 2016. Sono le 16:31 primi e 14 secondi. Grazie dell'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vi dico subito di cosa parliamo oggi, chiedendovi di intervenire all'800 24 00 24. Parliamo di una vicenda che ieri ho letto sui giornali e che a me personalmente ha lasciato molto interdetto, cioè mi sono molto interrogato e devo dire la verità, non sono portatore di un'opinione chiara di fronte a me stesso, quindi mi sono detto vale la pena di parlarne per ascoltare voi se ritenete di intervenire all'800 24 0024 e poi abbiamo due ospiti che vi presento subito. Di che cosa si tratta? Si tratta della decisione assunta lo scorso 13 dicembre dal Tribunale di Ragusa, Sicilia, che ha stabilito, si è pronunciato favorevolmente al cambio di sesso da maschile a femminile di una persona che si era rivolto al Tribunale di Ragusa, perché la particolarità del caso è che l'autorizzazione da parte del Tribunale al cambio di sesso è stata chiesta, e quindi con tutto quello che consegue dal punto di vista dell'anagrafe eccetera eccetera, dell'intestazione dei documenti ufficiali, cioè dal pieno riconoscimento del cambio di sesso, non è avvenuta a seguito di un fatto chirurgico, cioè dell'operazione e della ricostruzione, del cambiamento dell'apparato genitale sessuale. Bensì, è stata chiesta e riconosciuta dal tribunale prima e a prescindere che questo fosse avvenuto, sulla base di una motivazione che rispecchia psicologicamente e interiormente la fortissima convinzione maturata negli anni da parte del barra della ricorrente. E il tribunale, la sezione civile del Tribunale di Ragusa, presieduta da Salvatore Barracca, con giudice all'ater Elisabetta Trimani e Alida Bracone, hanno accolto l'istanza sulla base di recenti sentenze della Corte Europea per i diritti dell'uomo, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Tuttavia, come hanno precisato ai giornali che davano la notizia gli avvocati stessi del ricorrente, in particolare l'avvocato Nunzio Citrella, la pronuncia non era affatto scontata, anche perché questo procedimento andava avanti da anni e quando è stato intrapreso non sembrava che la giurisprudenza accumulata fosse univoca a favore del riconoscimento di questa richiesta. Il pubblico ministero aveva chiesto al giudice di respingere la richiesta. La decisione però è stata diversa dalla richiesta del pubblico ministero e favorevole invece alla richiesta del ricorrente. Perché? Leggiamo. I giudici di Ragusa valutano che, virgolette, la fissazione dell'identità di genere femminile da parte del soggetto esaminato, essendo derivata da una graduale maturazione personale, si può definire stabile e irreversibile. Questo fatto avviene, dicono i giudici, in presenza peraltro di un quasi azzeramento della fertilità maschile. Tuttavia, aggiungono i giudici, se è vero che l'attuale condizione è irreversibile sul piano somatico, e cioè si potrebbe intervenire se il soggetto volesse a favore del ripristino, per così dire, del tentativo di ripristino della fertilità maschile, tuttavia questo non corrisponde alla condizione rappresentata dal ricorrente, perché sul piano psicologico il soggetto percepisce chiaramente e stabilmente l'appartenenza al genere femminile e dunque per questo i giudici hanno disposto il mutamento del sesso da maschile a femminile e la modifica del nome, ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenze variazioni anagrafiche. Allora, il punto è questo. Mentre, e qui parlo a titolo personale, io ho pochi dubbi, a differenza di altri, sulla piena libertà di persone che avvertono dentro di sé di essere prigionieri di un genere in cui non si riconoscono, e di solito questa condizione poi si manifesta in presenza di equilibri ormai delicati, eccetera, eccetera, eccetera, di procedere in un percorso che per molti è poi di sofferenza, perché lo sappiamo tutti che non è facile vivere ed estrinsecare questa condizione interiore, non è de plano accettata da tutti nella società italiana, ma dovunque, ma insomma, comunque ancora nella società italiana, io ho pochi dubbi sul fatto di poter precedere poi a un cammino che può arrivare anche alla modifica del proprio sesso, per chi lo decide e ritiene, e a quel punto de plano, nella mia opinione, non c'è dubbio che la legge e l'anagrafe riconosca. Qui siamo in presenza di qualche cosa di diverso. Cioè, siamo in presenza della legge che riconosce il fondamento della convenzione soggettiva, a fronte della quale condizioni fisiche, fisiologiche, diventano secondarie. Il soggetto poi deciderà lui se compiere o meno il percorso. Il ricorrente qui dice che intende arrivare anche all'operazione, ma la sua richiesta di fondo era intanto di vedere riconosciuto lo status che egli avverte come proprio, cioè il proprio genere femminile e non maschile, da anni e anni e anni, e la legge dice sì. Allora, la mia domanda è: giusto secondo voi, non giusto secondo voi, ma soprattutto perché? Perché io dentro di me, accostandomi a materie come queste, che per chi avesse letto, per esempio, Michel Foucault, grande intellettuale francese, appartengono alla sfera della biopolitica, per intenderci, io lo faccio con un enorme sforzo di sensibilità e di rispetto per tutti, a dire la verità, perché sono questioni delicatissime. Però io questa volta, a dire il vero, non so darmi una risposta. Cambia davvero farlo prima sulla base di una convinzione che rispetto profondamente? E se poi per caso l'operazione non si fa, oppure mi si può dire: ma l'operazione è del tutto trascurabile, secondaria, perché naturalmente esiste una parte che vive la propria natura prevalentemente femminile anche senza farla poi l'operazione. Quindi sono tutte questioni delicate, e su questo io mi sono interrogato e ho detto: boh, io da solo non sono in grado di darmi una risposta, nel senso che ho provato a dire a me stesso: se fossi stato il giudice, bello, mi sono detto, da una parte io sono libertario e quindi sarei per il riconoscimento dei diritti, ma dall'altro come la motivo la sentenza? Vi ho detto come, vi ho letto alcune frasi della motivazione della sentenza, però chiedo a tutti coloro che intervengono di farlo sulla base di un grandissimo rispetto per tutte le opinioni, ecco, di stare al tema, evitando per favore, ve lo chiedo in ginocchio, integralismi contrapposti e così via, perché sono materie molto molto molto delicate. Allora, chi abbiamo per parlarne? Io ho chiesto di intervenire ad Anna Paolo Concia, ex deputata del PD, ora consulente per la Camera di Commercio italo-tedesca in Germania. Grazie di essere con noi, Anna Paola. Grazie, buonasera, ben risentito. E a Emma Fattorini, che insegna storia contemporanea, è senatrice PD, componente delle commissioni affari esteri e diritti umani, OSCE. Emma, come Anna Paola, la conosco da anni, è una senatrice del PD, è una storica, è una cattolica progressista, quindi hanno due sensibilità un po' e due storie culturali diverse, ma io ne apprezzo molto il punto di vista. Inizio chiedendo ad Anna Paola Concia: ci spieghi perché, immagino, dal tuo punto di vista questa sentenza è cosa buona e giusta? Beh, fa piacere comunque che ci sia Emma, una persona assolutamente ragionevole, quindi rispetteremo sicuramente la tua richiesta di essere, appunto, di non essere ideologiche. Io non, appunto, poi tutta la scusami se ti do il tuo. No, figurati. Tutta la premessa che hai fatto, una premessa molto delicata. Ecco, qui stiamo parlando di qualcosa di molto delicato, No, ma io dico delicato perché avverto la sofferenza di chi ha percorsi di questo tipo e anche il peso a volte che la società esercita, che insomma non è proprio una cosa facile. No, intanto parliamo di una cosa che si chiama disforia di genere, e cioè stiamo parlando di una di qualcosa che non è qualcosa di irrilevante, cioè si nasce con un corpo da uomo oppure con un corpo da donna sentendosi profondamente parte dell'altro genere. E noi, ecco, mettiamoci nei panni, io siccome ne ho conosciute tantissime, sia di appunto di trans che stavano facendo il cambio di sesso da uomo a donna e da donna a uomo, qui stiamo parlando di qualcuno di una sofferenza profonda, perché appunto è una disforia, quindi stiamo parlando di una sofferenza profonda che è accompagnata anche appunto da questa necessità primordiale di appartenere all'altro sesso, e che vede dei percorsi faticosissimi, dolorosissimi, perché appunto, come dicono anche i giudici, che sono appunto percorsi ormonali, cure ormonali pesantissime. Infatti i giudici che cosa dicono a un certo punto? Quello che tu riportavi è all'azzeramento della fertilità maschile, sì, perché naturalmente le cure ormonali comportano un azzeramento, essendo Jill, volendo Jill diventare una donna, c'è l'azzeramento appunto della fertilità maschile. Quindi stiamo parlando di qualcosa di profondo, di qualcosa che accade poche persone, cioè non è che ci si sveglia la mattina e uno dice beh, stamattina oggi voglio diventare uomo, cioè Paola Concia si sveglia e dice beh, domani ma da oggi voglio diventare un uomo, o viceversa Oscar Giannino si sveglia la mattina e dice adesso voglio diventare donna. Non è così, è ovviamente non è così, è un percorso molto doloroso, molto faticoso, e questa sentenza non fa altro che registrare questo, cioè registra il fatto che persone che hanno iniziato quel percorso, infatti Gil quel percorso l'aveva iniziato con le cure ormonali e anche sicuramente con un sostegno psicologico, lei lo racconta nell'intervista anche, cioè è giusto che a queste persone che si sentono di appartenere all'altro genere gli si dia questa possibilità nel loro percorso di transizione da un genere all'altro. Naturalmente a un certo punto i giudici dicono anche, come ti chiedevi tu, ma se si volesse tornare indietro, ecco, guarda, appunto, ma non è così, è molto difficile che si torni indietro, perché il desiderio, la disforia di genere è una cosa molto forte, molto profonda, è difficile che appunto che ci sia un via vai, non so come non è un via vai da una parte e dall'altra, assolutamente no. E questa cosa, con tutta quella folle polemica sul gender, non c'entra niente, perché stiamo parlando di una disforia, stiamo parlando di una cosa completamente diversa, che appunto alcune persone nascono con questa disforia, e quindi c'è una legge per il cambio di sesso in Italia. Naturalmente noi io l'avevo anche presentata, questa sentenza ha a che fare con quella che noi avevamo chiamato la piccola soluzione, cioè il fatto che comunque nel contempo lo Stato ti riconosce il cambio di nome e il cambio evidentemente di identità sessuale mentre tu stai facendo questo percorso di transizione. Ma stiamo parlando di una norma di civiltà, di quel minimo sindacale di civiltà. Perché io chiedo agli ascoltatori di mettersi proprio nei panni di qualcosa che devasta le vite personali. Non è che stiamo parlando appunto di capricci, è qualcosa che devasta le vite personali, e un paese civile normale non dovrebbe relegare intanto alle sentenze queste cose. Diciamo, sarebbe bene che si facesse una legge sulla piccola soluzione, perché appunto poi le sentenze sono discrezionali. Le sentenze, e questo anche il mio problema, nel senso che io voglio dire, magistrati, ok, ma è inevitabile che io dica e ricordi gli ascoltatori, oltre che a voi due ospiti, che entreremo in una sfera nella quale la valutazione discrezionale, le convinzioni personali, culturali, la sensibilità, eventuali conoscenze psicologiche, cliniche, da parte dei giudici diventano un fattore, non voglio dire imprevedibile, ma variabilissimo. Ecco, anche questa cosa, devo dire la verità, io che sono contro la giurisdizionalizzazione estesa come nella società italiana, mi pongo un problema. Comunque, Anna Paola ci ha detto, Anna Paola Concia, che secondo lei è cosa buona e giusta per queste ragioni. Adesso abbiamo un minuto di traffico e poi sentiamo Emma Fattorini dal suo punto di vista come considera questa sentenza dei giudici di Ragusa. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Allora, Emma Fattorini, abbiamo sentito Anna Paola Concia, ma Emma Fattorini, senatrice PD, storica, cristiana, profondamente cristiana, donna, cosa pensa di questa sentenza dei giudici di Ragusa? Buonasera a tutti intanto, e ciao a te Oscar e a Paola. Sì, ho sentito, ma io guarda, capisco le tue perplessità, ma io penso che sia una sentenza giusta, se posso dirla, insomma, io ci ho pensato molto, è da tanto che si parla di questo tema, le persone interessate sono tantissime ormai anche in Italia, si parla di migliaia, si dice 10.000 intorno, insomma, è una cosa importante che andrebbe anche legiferata, anche se anch'io ho molti dubbi sempre sul legiferare su questi temi, ma perché dico questo? Perché tu hai ragione, io non sono assolutamente per un soggettivismo così, diciamo, sregolato, molto senza limiti, del tutto appunto solo soggettivo, ma in questo caso, in questi casi, appurando che la decisione è molto solida, è alla fine di un percorso appunto di gran dolore, sofferenza e che viene valutato, credo, spero sia stata valutata in quel caso e si debba sempre valutare, questo è il punto vero, ma se così fosse, se così è, e quasi sempre lo è in questi casi, non è una scelta leggera. Ecco, in questo caso non è lo scontro tra, diciamo, la scelta tra soggettivismo e natura, c'è proprio una psiche che rifiuta il corpo, non so come dire, c'è una scissione vera, una discrepanza irriducibile nell'accettazione del corpo, della biologia. Allora, come io sono come te molto scettica sull'ipersoggettivismo, no? Sul fatto che il desiderio diventa diritto, su tutta questa cosa, lo sono anche dall'altra parte quando c'è un biologismo estremo, cioè quando si pensa che la biologia abbia ragione. Certo. Perché, vedi, la psiche è natura anche quella. Cioè capito? Non è il capriccio, il desiderio soggettivo che varia. Ecco, qui bisogna proprio fare attenzione. Perché ci sono veramente due scivolate sia di qua che di là. C'è una tendenza biologistica che pensa che lì ci sia la verità oggettiva, no? E di là ci sia il capriccio. Detto questo, c'è un rapporto ovviamente molto solido, molto forte. Io ho grande rispetto per la biologia e la natura, ci mancherebbe. Quindi il fatto che non ci sia la demolizione, che non ci sia l'operazione, vuol dire moltissimo. Però sostengo che anche una convinzione, un processo identitario che non è riuscito a ricomporre, a riconoscere da parte della psiche, ma anche del desiderio, della morale, di tante componenti che fanno la persona, non riconosce il corpo, e lì si crea una sorta di disperazione, capito? Che ha dei ricaschi anche sociali, in cui la persona non riesce a trovare un inserimento sociale, un lavoro. Ecco, ci sono forme di vera disperazione. No, certo. Sì, è un po' come nelle relazioni dello stesso sesso, non distinguere tra l'orientamento sessuale, cioè dove si orienta il mio desiderio erotico, che può essere anche non è verso l'altro sesso ma verso il proprio, e l'identità sessuale. L'identità è un'altra cosa, cioè l'identità, cioè è un po' come superare anche queste caricature che si sono fatte sempre, no? del gay che è effeminato o della lesbica che è maschile, sono sciocchezze, ci sono ma anche no, come ci sono tra gli etero. oppure anche tante scemenze sul gender, capito? Che questa teoria famosa che non si capisce cosa sia, perché è nata poi nei nostri studi di femministe, di storia delle donne, di gender history, ma da tutte e due le parti, anche di credere superficialmente che tanto se c'è il genere neutro, ci sono 450 generi, questa cosa del Kier che io trovo assurda, questa sì, proprio, capito, del tutto, ecco lì queste estenuazioni soggettivistiche che faccio, sono tutto il contrario di tutto il momento in cui lo sento. Quindi quello che conta davvero è un processo profondo di solido, no? Di decisione. Ecco, e questo sta alla legge, ai giudici, cioè insomma bisogna Io guarda, dico a entrambe che almeno nel mio dubbio avevo bisogno esattamente di sentire opinioni come le vostre, quindi ragionevolmente mi avete abbastanza convinto da punti di vista diversi. Certo, il giudice, non lo so, mi pone un problema. Allora a quel punto, e anche quello mi pone un problema, legiferare su ogni singolo passaggio, però ecco, in presenza di un percorso documentato e verificato di questo tipo, capisco. Tra l'altro, io ringrazio ascoltatori come Tonio, per esempio Tonio mi ha mandato un sms che dice molte università, tra cui la mia, rilasciano la doppia tessera per gli studenti in transizione. Questo non lo sapevo, Tonio, quindi c'è un pezzo di società che è più avanti delle stesse decisioni e statuizioni sia di legge che di giudizio. Quindi io ringrazio intanto per il contributo che era all'altezza che mi aspettavo, sia di Emma Fattorini che di Anna Paola Concia. Sentiamo come la pensano alcuni di voi, per esempio Luciana che ci chiama da Padova. Luciana, prego. Buonasera, allora intanto io la ringrazio di aver toccato un tema molto delicato e volevo fare una mia testimonianza. Allora intanto io ho una vita che sono così, la mia biologia è femminile, però purtroppo nella carta d'identità ho i dati anagrafici che sono maschili. E diciamo che i consultori li ho superati tutti, però non riesco ad accedere ulteriormente alle cure perché purtroppo ancora in Italia il percorso è per gente molto facoltosa, quindi io non me lo posso permettere. Ah. Guardi, poi c'è un bigottismo in giro. Questo lo do abbastanza, purtroppo, per scontato. Cioè, fa paura, io mi sento veramente... Ma quindi Lucia, per lei questa sentenza è una cosa concretamente indicatrice di una strada che potrebbe percorrere anche lei a questo punto? Scusi se la interrompo, sì. Però diciamo io ho provato in comune a cambiare perché ho sentito questa sentenza, però mi hanno detto che è una sentenza, non è legge. Ah, certo. E quindi mi obbligano a rimanere con il nome, con la O. No, il percorso dovrebbe essere a quel punto ovviamente oneroso, perché si tratta di mettere su avvocati, di fare istanza alla circoscrizione giudiziaria, quindi al tribunale civile dove lei vive, per ottenere un riconoscimento simile. In quel caso però fa giurisprudenza. Mi rendo conto che non è alla portata di tutti i portafogli, questo è il problema, che come vedete Lucia, abbiamo aperto i microfoni e come vedete però ecco poi i problemi concreti, lo dico a chi poi trincia giudizi senza pensarci, i problemi concreti di chi ha una vita di sofferenza a cui a quel punto è negato uno sbocco coerente. Difficile giudicare, non so cosa dirvi, però Luciana, io mi auguro che in qualche modo, ecco, un'istanza simile possa avere un esito, purché sia, magari il giudice poi non la pensa allo stesso modo nel suo caso. Alessio da Roma, come la pensa Alessio? Io penso che è un argomento molto difficile da trattare, però parlo dei dubbi che mi vengono, sì. No? Noi siamo cresciuti con una cultura maschio-femmina. Non c'è dubbio. Immagino solo che vada all'autogrill dove devo scegliere di andare al bagno, uomo o donna. Spogliatoio in palestra, uomo o donna. I primi dubbi mi sono venuti quando avevo delle problematiche io da papà ad andare a portare in piscina mia figlia e inserirmi nello spogliatoio delle bambine. In questi casi si stravolge un po' tutta la condizione in cui vado anche a pensare a chi si trova dall'altra parte. Cioè... No, per carità Alessio, infatti non a caso in uno degli stati, uno dei temi, gli stati durante le elezioni presidenziali americane, in uno degli stati il tema centrale era un reggente intervento legislativo dell'assemblea di quello stato, esattamente sul tema che lei sta toccando. Cioè consentire il bagno secondo l'identità dichiarata o secondo quella riconosciuta solo di genere sui documenti. Quindi per carità è ovvio che esistono anche questi problemi. Qui però stiamo parlando di una cosa che se mi consenti, adesso viene prima, cioè della disciplina da dare a tutte queste questioni. Rapidissimo, Pasquale da Foggia, riesce a essere rapidissimo? Sì, sono rapidissimo più di questo. La sentenza per me è sacrosanta. Mi riconosco anche se non sono cattolico nella maniera in cui si è pronunciata l'amica Emma Fattorini, prima, sì. Ma sono molto più cristiano in senso proprio completo. E il discorso è questo, dottor Giannini. È necessario che ci convinciamo tutto, che la nostra identità non è... Caduta la linea, purtroppo, però abbiamo capito che eri favorevole alla sentenza e, oimè, è anche esaurito il tempo, ma non ti abbiamo fatto cadere noi. Continuate su Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Milan, che è tornato in questi giorni, e alle 8:20 domani, attenti a noi due.